Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. Torniamo a parlare dei decreti relativi sia alle rinnovabili elettriche che al fotovoltaico, il quinto conto energia, decreti appena varati dal governo. Ne abbiamo parlato ieri con Tommaso Barbetti di Elements, che è una società specializzata in analisi del mercato elettrico, in particolare del mercato delle rinnovabili. Barbetti è tornato a trovarci, ciao Tommaso. Ciao Maurizio, ben trovato. Allora, ieri abbiamo analizzato la riduzione delle tariffe che riguarda un po' tutte le rinnovabili elettriche e tu ci dicevi insomma che queste riduzioni di tariffe non sono mortali per il settore. Certo, c'è bisogno che le aziende si adattino puntando su una migliore gestione della produzione e della vendita di energia elettrica, giocando su tutta una serie di aspetti appunto, per così dire, di ottimizzazione. Uno dei temi però che è stato al centro, almeno a parole, anche delle dichiarazioni del governo, delle intenzioni del governo, era riuscire finalmente a collegare questi incentivi, perché questo è stato il punto più debole probabilmente negli scorsi anni di tutto il sistema di incentivazione, collegare il sistema di incentivazione allo sviluppo di un'industria, di una filiera italiana. Questo obiettivo finora non si può dire che sia stato raggiunto, anzi direi è stato quasi del tutto ignorato. Ci sono nel nuovo conto energia e nel decreto rinnovabili delle novità, dei miglioramenti da questo punto di vista? Ma in tutta onestà di cose evidenti e eclatanti, innovative, se ne vedono veramente poche anche all'interno di questo nuovo set di decreti. Che cosa c'è? Si parla nuovamente di una valorizzazione della biomassa da filiera corta, ossia di tutte quelle produzioni che avvengono in un raggio sufficientemente ristretto di chilometri dal luogo in cui poi vengono bruciate all'interno dell'impianto, che potrebbe essere effettivamente qualcosa che darà un po' di respiro al mondo agricolo, al mondo agroenergetico. Tuttavia anche qui ben poco di innovativo rispetto al passato, quella della filiera corta è un percorso che era già stato. È stato rafforzato un po', ma probabilmente, insomma, mi pare di capire, la differenza di incentivo tra chi utilizza la filiera corta per produrre energia e chi invece importa legname da chissà dove non è poi così elevata. Questo ce lo dirà il mercato, però non pare così sufficientemente elevata, ecco. Da scalzare produzioni da una parte, da farne emergere chissà quali di nuove. Altri aspetti però, insomma, almeno parzialmente positivi? Ma si parla ad esempio di un premio per determinate tipologie di impianti geotermici innovativi a emissioni nulle, con reiniezione del fluido. Parliamo di centrali, sì, che producono energia a partire da riserve di acqua bollente presenti nel sottosuolo. Una volta tirata fuori quest'acqua, questo vapore va reiniettato, altrimenti si inquina l'atmosfera. Ecco, su questo c'è qualcosa? Sì, su questo c'è qualcosa, così come c'è qualcosa anche nel quinto conto energia sugli impianti solari a concentrazione fotovoltaici con caratteristiche innovative che poi il decreto si spinge oltre a definire. Ora, da qui a dire che ci sono sostanziali misure per il rilancio, o per meglio dire per il lancio della filiera produttiva italiana, insomma, ne passa. Italiana un po'. Per quanto riguarda il fotovoltaico, c'è ancora un incentivo maggiorato per le produzioni europee e soprattutto sono cambiate le regole con le quali si definisce, per esempio, made in Italy un pannello fotovoltaico, perché attualmente uno lo importa dalla Cina, veramente gli dà una mano di vernice e diventa un pannello made in Italy. È cambiato qualcosa? Sì, questa discussissima misura sul premio per le produzioni UE effettivamente è sparita. Quindi è sparito anche per via di tutte queste polemiche a cui accennavi, che erano scaturite dopo l'introduzione nel quarto conto energia di questo tipo di disposizioni. Beh, certo che insomma anche questo lascia un pochettino perplessi. A proposito, diciamo, di mira sbagliata, probabilmente un altro caso abbastanza eclatante è quello del tetto di 50 kW introdotto per l'eolico, oltre il quale bisogna, per avere diritto agli incentivi, accedere ad un registro, una cosa che complica abbastanza le cose. La stessa cosa è stata fatta tra l'altro sul fotovoltaico per impianti sopra i 12 kW, che è una taglia abbastanza piccola ed è una delle misure più contestate questa. Per quanto riguarda l'eolico è stata stabilita un'altra soglia, quella dei 50 kW. Ora Ferrante, che è responsabile del Partito Democratico per le politiche sul cambiamento climatico, ha fatto notare che in Italia si producono generatori da 55 kW. Quindi se uno mette la soglia a 50, praticamente sta facendo in modo che importiamo generatori dalla Cina invece che comprarceli in Italia. Sì, sì, è senz'altro così. Tra l'altro ti devo dire che non è l'unica stranezza contenuta all'interno del decreto. Cos'altro c'è di bello? Per esempio c'è questo contributo di 2 euro a megawattora, che sono tanti, che dovrà essere rilasciato da tutti i produttori, anche quelli attualmente in esercizio, al GSE. con l'eccezione in realtà degli impianti CIP 6. Con l'eccezione del CIP 6, cioè quello più contestata di tutte? Sì, sì. Cioè sono gli unici che non pagheranno questa ulteriore tassa, sono quelli che già da 20 anni si prendono gli incentivi, che forse ora sarebbe anche il caso di toglierli, insomma. Questo mi stai dicendo. Sì, c'è questa curiosa eccezione. Un'altra stranezza è che in un generale trend di ribasso degli incentivi per tutte le fonti, come abbiamo affrontato ieri, c'è un cluster di impianti, che sono gli impianti idroelettrici tra gli 1 e i 10 megawatt, che riceve in realtà una remunerazione più alta rispetto a quella che riceve adesso. Lungi ovviamente dal voler affermare che questa remunerazione non è sia sbagliata, però non è necessaria, però in un salta all'occhio, ecco, salta. Vanno a guardare tutte le tariffe. Salta all'occhio. E poi c'è un trattamento di favore anche per gli ex zuccherifici. Ricordiamo che l'industria dello zucchero è stata fiorente in Italia per un po' di tempo, poi sembrava dovesse chiudere, invece il prezzo dello zucchero è rimasto alto, adesso ci stanno ripensando. Sta di fatto che per gli zuccherifici c'è un trattamento un po' speciale. Di cosa si tratta? Sì, non dovranno passare da quelle che qualche associazione ha definito le forche caudine delle aste o dei registri. Pertanto potranno accedere liberamente agli incentivi, come peraltro è sempre accaduto fino al 2012. Non potrà più accadere invece dal 2013 con questa, anche qui, forse meno curiosa, più argomentata, ma comunque importante eccezione degli zuccherifici. Zuccherifici, stiamo parlando di biomassa naturalmente, anche in questo stiamo caso. Produzione di energia da biomassa, c'è un tetto per tutti tranne che per gli zuccherifici. Va bene, grazie Tommaso Barbetti. Grazie a te Maurizio. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.